Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È l'ultimo volume della settimana, quello che ci apprestiamo ad iniziare tutti assieme. Giulio Caperdoni da questa parte di microfono, mixer e cosa manca? E le cuffie, certo, servono anche loro. E voi dall'altra parte degli apparecchi radiofonici, come tutti i giorni, fra le 19 e le 20. L'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com rappresenta sempre il riferimento per potermi raggiungere direttamente, per potersi iscrivere alla lista nera. E poi ci sono due siti, quello istituzionale della radio, www.radiorockfm.com, come anche quello che è dedicato esclusivamente ad Eclettica, myspace.com/eclettica. Su entrambi trovate le informazioni relative al podcasting. Lunedì, 13 gennaio 1986. Victor Wilcox giace insonne nella stanza buia, in attesa che la sveglia al quarzo si metta a suonare. È stata predisposta perché suoni alle 6:15. Lui non sa quanto dovrà aspettare. Potrebbe scoprirlo facilmente, cercando a tastoni l'orologio, sollevando la portata di vista e premendo il pulsante che illumina il display digitale. Ma preferisce non saperlo. E se fossero solo le 6, o addirittura le 5? Potevano essere le 5. Qualsiasi ora fosse, non ce l'avrebbe fatta a riaddormentarsi. Ultimamente era diventata un'abitudine, quella di restare sdraiato al buio in preda all'apprensione, in attesa della sveglia. Questo era l'incipit di Ottimo lavoro, professore, di David Lodge. You make my life much brighter. You're always on my mind. You make my load much lighter. True love is hard to find. Sometimes I feel I have to get away. I change my mind when I look in your eyes, and when those clouds come in and try to darken my day, I'll always want you to stay. And deception, yeah, I was losing my way. You gave my life some direction, and now I'm ready to say, I know there's bound to be some hard times ahead. I'd be a fool to believe, but if you'd go, I'd think of dying instead. I'll never want you to leave. When you walk

Abbiamo aperto il quinto volume con una cover e stiamo per proseguire con un'altra cover. La cover con cui abbiamo aperto era da parte di Malcolm Middleton nel rifare un brano di Madonna intitolato Stay. Poi una delle scoperte delle ultime settimane di Eclettica, ovvero sia i Megaphone con il pezzo intitolato Lazy Suicide, ed ora è la volta di una formazione che proviene da Detroit, città che non bazzichiamo molto, perlomeno nell'ultimo periodo qua in Eclettica. Una formazione tipicamente garage rock, ma che però ha ripreso in mano una canzone che arriva da metà anni 80 del duo Sparks, quindi che si cimenta con l'art pop, e viene fuori una formula che sicuramente è piacevole all'ascolto. Il tutto è estratto dal nuovo album dei The Dirt Bombs, album uscito per In The Red il 19 di febbraio intitolato We Have You Surrounded. Dirt Bombs a rifare Sherlock Holmes, originariamente degli Sparks. Forse il suo primo ricordo era quello di sua madre, in piedi, su uno sgabello in cucina, intenta ad accatastare il cibo in scatola in cima alla credenza. Sul tavolo c'erano altri barattoli, ananas, pesche, piccole arance. Lo si poteva indovinare dai disegni. Lui le aveva domandato: «A che cosa servono tutti questi barattoli?» Il sole splendeva attraverso le nappe della tenda della finestra della cucina, dietro la testa della madre. Anche se Tim aguzzava la vista nella luce accecante, non riusciva a vedere bene la faccia della madre, Tuttavia ricordava che aveva rivolto lo sguardo su di lui, per quello che gli era sembrato un tempo interminabile, prima di rispondere: «Perché c'è la guerra, caro?» «Che cosa è la guerra?» aveva chiesto lui, allora, ma non riusciva più a ricordare la risposta. Questo era l'incipit di Fuori dal guscio, di David Lodge. Based on random audio sweeps, I've projected that right now 80% of the public believe the terrorist is still alive. We're also showing a 12% increase over last month's positive mention in all four quadrants. We'll be right back. Stamane ho visto Barabba. Era uguale a quelle vecchie illustrazioni religiose dei primi anni 60. Il volto abbozzato ad acquarello, i solchi della vecchiaia, marcati come pennellate di acrilico. Le movenze fissate ad un supporto indifferente alla sua natura e alla sua vita. Avevo un euro in tasca. Lo toccavo, cercando un alibi in grado di reggere a quella visione così lontana. Barabba posava lo sguardo sulle ombre dei cappotti, sulle cuciture degli stivali, dei miei. Gli ho preso la mano, quello che restava di quell'arto così pesante e ligneo. Quella moneta era calda come un fiore, come una mattinata di settembre, come lo era stato tanto tempo fa anche lui. Barabba era stato liberato, ma dentro sé le sbarre umide di una prigionia ben più pesante. Lo soffocava e lo obbligava a dover vivere con le sue colpe e i suoi dolori. Nessun avvocato lo avrebbe difeso, nessuna giuria lo avrebbe assolto, nessuna legge sarebbe mai stata scritta per lui. Non mi sono sentita meglio né peggio. Ero impotente, o forse me ne sono solo lavata le mani. Barabba mi ha regalato una luce trasparente e soffusa che rischiarava le sue pupille appannate. E tutto questo amore per il valore di un misero euro. Il mondo è affamato d'amore. Questo è il prezzo da pagare. E queste sono le parole di Martina, le sensazioni legate ad un euro di elemosina. Martina, che ha scritto a Giulio @radiorockfm.com. Eclettica, che sta per chiudere la sua prima parte, poi vi ricordo ce ne sarà altrettante per arrivare fino alle ore 20, e che per quanto riguarda le scelte musicali in questi minuti vi ha fatto prima stare assieme ai Zen Circus con Brian Ritchie, e nel brano in questione c'erano anche Kim Deal e Kelly Deal, dove invece Brian Ritchie dà una mano per tutto l'album alla formazione pisana. Punk Lullaby era la canzone in questione, per poi esserci ascoltati invece i Gringo Starr con All Y'all. E si chiude questa prima parte con una novità, These United States. La canzone è First Sight. Just click.